bambine, donne, bambini da stuprare, polmoni di bambini. Ecco cos'è Mondo Bazar. Market Oriented Non-Democratic Organization. Il negozio mondiale dove tutto è in vendita. Voi siete, anzi noi siamo, il paradiso del liberismo. Il nostro motto è: tutto è merce, tutto è in vendita. Signori, ottimismo, siamo negli anni 80. Dai, compra che ti passa. Dateci i vostri soldi e noi vi faremo comprare persino voi stessi. Vuoi un aereo di piccoli amanti e di nuovi pistole e diamanti? Tutto quello che tu vuoi qui lo troverai. Assecondiamo noi i tuoi gusti, costi quel che costi. Mondo Bazar. Tutto è merce, tutto è in vendita. Compra che ti passerà. Apri ora il tuo portafoglio e di adesso